Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. E fare bene il derby ci dà tanta forza per affrontare il campionato. Volevamo che Ibra ci fosse questa partita e così è stata, quindi so che lui è molto carico per questa partita. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Il morale di questi giocatori che sono tornati facendo bene in nazionale. Mediaset? Anch'io, anche qui siamo in macchina di fianco ad Andrea, volevo chiederti quanto è difficile preparare un derby in queste condizioni, con queste defezioni, anche con solo l'allenamento di oggi a disposizione e non avrai neanche tutti per fare un allenamento normale. Ma sicuramente avessi avuto la possibilità di scegliere, avrei preferito avere almeno un giorno in più, ecco, per preparare il derby. Detto questo, sappiamo benissimo che ci sono dei calendari da rispettare, sia internazionali che calendari del campionato nazionale, quindi ci adegueremo di conseguenza. Prepareremo oggi la partita perché non abbiamo altre vie, il tempo non sarà, non avremo grandissimo tempo, quindi cercheremo tra videoanalisi e situazioni spiegate alla lavagna di accorciare un pochettino l'allenamento, che dovrà essere per forza anche non tanto impegnativo, non tanto intenso, non tanto lungo, visto che i giocatori sono tornati ieri e due giorni fa hanno giocato, c'è gente che ha giocato anche la terza partita o la seconda partita consecutiva. I tempi di amalgama, di voler stare insieme, è ancora un percorso iniziale, ancora ci vede ancora comunque secondo me con ampi margini di miglioramento, però dobbiamo affrontare queste sfide con grande consapevolezza delle nostre qualità, con grandissimo rispetto ad un avversario che da tutti è pronosticato come il probabile vincente del campionato, quindi andremo al campo però con convinzione, questo sicuramente, provare a fare meglio di loro. Mister, le giro tre domande. Cioè, ma dico io, ma con tutte le ore che ci sono, ma devono proprio parlare alle due in contemporanea stereo, Pioli e Conte, Conte e Pioli in ordine di apparizione su questi schermi. Non può esserci derby senza, in campo, senza essere che sia preceduto dal derby radiofonico tra Franco Ordine e Fabrizio Biasin. Buongiorno ragazzi. Ciao Carlo, buongiorno a voi. Alfabetico, prima Biasin e poi Ordine, poi siccome si gioca Inter Milan è giusto che sia prima Biasin. Io mica mi nascondo, Franco, mica mi nascondo, io sono per una volta non voglio fare il democristiano e sono d'accordo con Pioli, l'Inter è una squadra costruita per vincere lo scudetto, non ci si nasconde quest'anno, anche in presenza di defezioni e rosa ridotta. Vai avanti tu che mi scappa da ridere. Ma questo ti dà l'idea di come è messa l'Inter quest'anno. Cioè, se con tutte le assenze, qualunque altra squadra, dico persino la Juve, avrebbe cominciato a far giocare Fra Pampina, Lo Seito, Cavazzuoli, e invece... ma chi sono questi? No, li ho tirati... Fra Pampina è un famoso giocatore del Bari degli anni Ottanta, ma voglio dire, poi Lo Seito, non mi dire che non conosci Ugualino Lo Seito, è stato... Franco, li conosco tu, ma mi era in castagna a me. Ma con chi credi di avere a che fare? Dovrebbe essere anche Pierluigi Pardo collegato al telefono, non ho capito bene i tuoi spostamenti. Sì, ciao Pier. Sì, sto fra tre minuti entro, quindi il tempo di parcheggiare, poi fra qualche minuto sono su. Ma Lo Seito chi non lo conosce, assolutamente, non scherziamo, però sono d'accordo con l'analisi e secondo me le assenze di questa partita dell'Inter, che pure sono gravi, sono pesanti, sono impegnative, in qualche modo conferma la forza di questa squadra, che pur con... Non ti sento, parcheggia, sali che poi ci parliamo di persone. Ma meraviglioso. No, tra l'altro io devo ho promesso a Fabrizio Biasini e Franco Ordine di tenerli non molto, anche perché Biasini è ormai inafferrabile, Ciccio. Ormai devi prendere appuntamenti a lunga scadenza. È sempre in giro a presentare il suo libro sull'Inter, scritto con Paolo Condò. Non lo becchi più sto qui. Facciamo la marchetta. Dimmi, Ciccio. A parte il fatto che si è montato la testa con questi 50 quadretti che ci ha regalato, ma volevo dire, l'unico che ormai gode della esclusiva di Biasini, lo sai chi è? Ho un vago sospetto. Il gatto! Allora, buttiamogli lì un tema, dato che è così tronfio e inafferrabile. Sì. Biasin, primo tema. L'unica difesa possibile per l'Inter, per le ovvie ragioni, è D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov, cioè la stessa difesa, se non ricordo male, che ne ha presi tre alla prima giornata della Fiorentina. Sì, che però ne ha fatti anche qualcuno di più. E un po' secondo me questa è la voglia di Conte, cioè di badare meno alla fase difensiva rispetto al passato, che è stata sempre un po' la sua prerogativa, e sfruttare molto il potenziale offensivo, che è sconfinato per come la vedo io. Quindi sicuramente anche domani l'Inter rischierà qualcosa in difesa, perché Kolarov delle prime apparizioni non mi è piaciuto, non ci è piaciuto, però è sempre Kolarov, non è proprio l'ultimo che passa per strada. D'Ambrosio secondo me è una garanzia, lo puoi mettere anche a fare quello che porta dentro le borracce e lo fa sempre a buon livello, e De Vrij è uno dei migliori centrali al mondo, per cui io non sono spaventato neanche per questa, che è una difesa, non dico rabberciata, ma l'unica possibile. Diciamo che nell'11 l'Inter anche domani sarà super competitivo, mancherà qualcosa a livello di sostituzioni, e quando vuoi arriviamo al capitolo Eriksen, ma so che tu ce l'hai in testa questa sì, cosa. Sì, ce l'ho in testa, vorrei sottolineare con Franco tutta la sua siccome era di Fabrizio. Io sono sempre molto... Devo riconoscere questo, qui più che siccome era, diciamo lui ormai si è tolto i panni non solo del democristiano ma anche quello del napoletano che fa le macumbe eccetera, e quindi è uscito finalmente allo scoperto. Però devo dire francamente che il suo ragionamento è da condividere da cima a fondo, anche perché se non succede quest'anno diventa un vero problema. La discussione semmai va rovesciata sul conto del Milan, perché noi finora io ho letto ho sentito il sapore di zucchero filato eccetera. Il Milan dopo il lockdown ha fatto solo e soltanto due prove di fuoco, una con la Juve e l'altra con l'Atalanta. Secondo me peraltro che peraltro contavano zero quasi a livello di classifica. Certo, io devo dire che invece l'unico mio paragone secondo me è pertinente è con il derby di febbraio. Allora lì in quella circostanza il Milan partì bene, partì benissimo, prese la sprovvista, scappò davanti per 45-50 minuti, dopodiché se la fece sotto e fu letteralmente spianato. Ora è questo il punto vero da capire del Milan di domani pomeriggio sul tardi, perché al di là delle assenze che pure sono importanti eccetera, però bisognerà capire se ha colmato quel gap di natura personalità, psicologico, il famoso panico da rimonta subito in quella circostanza. Questi sono tutti interrogativi che rimangono aperti fino a domani sera. Chiederà Ibra, magari ti dà una risposta a lui. Ho capito, ma c'era anche Ibra quella volta. Sì, quella volta c'era anche Ibra, però va detto che dal punto di vista della personalità, con Ibra in campo il Milan è cresciuto, mi sembra un dato di fatto. Poi è vero che i 9 punti in classifica sono un'illusione ottica, perché fino adesso onestamente il Milan non ha ancora affrontato non conta difficoltà. Niente. quello che ti voglio far notare è che è l'aspetto della classifica, cioè il Milan non gioca una partita così importante dal punto di vista della classifica, secondo me, da almeno un anno e mezzo, cioè dal famoso derby di Gattuso, che poteva valere la Champions, perso peraltro. Sì, no, è vero anche questo, però è altrettanto vero che onestamente diciamo dal punto di vista secondo me la differenza lo fa lo stadio vuoto, e cioè io ho visto nelle difficoltà per esempio contro l'Atalanta, per esempio contro la Juve, io ho visto una squadra reagire in modo completamente diverso rispetto al passato. Benissimo. E quindi questo voglio capire se questa cosa è legata alla mancanza dello stadio, quindi alla tensione che ti trasferisce il pubblico, che ti l'emozione. Non so se sei d'accordo, ma un giocatore come Çalhanoğlu, da quando non c'è il pubblico, è un altro giocatore. Ma quello secondo me non è legato al pubblico. Quello secondo me è legato. No, ci spiego. Secondo me è legato alla maturità del giocatore e soprattutto al binomio con Ibrahimovic. Cioè lì, devo dire, è come trovare il perfetto partner. Lo avrei trovato nella professione per fare una vacanza. Cioè, lui è così. E sei quindi, tu, secondo Franco, me, sei tu. È in quell'altra cosa che non ha trovato. Allora. No, quell'altra. Non trova la fidanzata stabile. L'ha trovata. Come sentite, è arrivato per Luigi Pardo. Allora, offro una cena a chi indovina il colore del maglioncino di Pardo. Biasin, comincia tu. Bordeaux. Franco? Secondo me è verdolino. Cioè siamo veramente. Ti pare che hai detto un maglione verdolino? Scusa, adesso. È un elegante azzurro carta da zucchero. Qualità. Grande qualità. Senti, devo lasciare andare i ragazzi che devono lavorare. Biasin deve andare a fare la non star. Non è credibile questa cosa, capisci? No, sì, Biasin si deve andare a pranzo. Venerdì pre-derby, se non lavoriamo oggi, non lavoriamo mai. Sì, capito, certo. No, volevo chiudere con Biasin sul tema del tuo radio tweet di ieri. Mi devi un radio tweet, poi lo fai. Sì. Il tuo tweet di ieri era dedicato a quello che in nazionale è felice perché gioca e fa grandi cose, all'Inter invece non è felice perché non gioca. Ah, Eriksen. Sì, esatto. Beh, che insomma, secondo me, Biaso, secondo me Eriksen, comunque così motivato, così carico, così in forma, è una buona notizia per l'Inter. Poi. Magari. Guarda, posso dirti, io sono assolutamente d'accordo, ci mancherebbe altro. Se dicesse no, a me va bene anche stare in panchina, sarebbe un problema, no? E dopodiché bisogna anche valutare un pochino qual è la voce del popolo. Ma il tuo sondaggio, tu hai fatto un sondaggio su Twitter proprio perché non c'è un inutile sondaggio. Non c'è proprio niente da fare dalla mattina alla sera. Volevo quasi votare, poi dopo se votavo sembrava diceva ecco, sei interista, hai votato. Nessuno è anonimo, che te frega, vota. No? Comunque l'85% sì, dei votanti, che sono qualche migliaio, dice vogliono Eriksen in campo, l'85%, okay. Che sia nel 3-5-2, nel 3-4-1-2, basta che giochi. E allora Conte non lo farà giocare, ma... sono d'accordo. Ecco, sono col 15% della popolazione, ecco, è agghiacciante questa maggioranza, bulgara la definirei. No, però allora la verità è che abbiamo avuto, secondo me, in queste due partite, tutte e due, perché tutte e due le partite sono state clamorose, sia con l'Islanda che con l'Inghilterra, abbiamo avuto l'ennesima conferma che il giocatore non solo è forte, perché questo si sapeva, ma sta anche bene. Quindi sta bene fisicamente, sta bene mentalmente. Quindi, insomma, io credo che, ripeto, io ho fiducia in Eriksen. Se non gioca domani, quando gioca? No, ma domani può anche non giocare. Io faccio un discorso più di prospettiva e di medio periodo. Secondo me è un giocatore. Siamo all'inizio della stagione. È chiaro che Conte cerca i suoi equilibri. Per me può vincere anche senza Eriksen. Però, insomma, un giocatore così. Per quanto pesa, per quanto è ingombrante, per quanto ti può dare in termini di potenziale. Siamo a ottobre, siamo come fosse settembre, perché la stagione è appena iniziata. Con tutte le incognite che ci sono, sarebbe imperdonabile non fare uno sforzo reciproco, attenzione, certo. Perché poi c'è anche la responsabilità di Eriksen. Non è che Conte è cattivo e non lo fa giocare perché gli sta antipatico non è proprio questo, ci vuole anche la parte sua, secondo me, un impegno, un focus diverso nell'economia della squadra. Anche se va detto che insomma, queste, le prodromi di questa stagione, senti che come parlo di i prodromi, no, le prime partite di questa stagione hanno dimostrato come la qualità che entra dalla panchina con i cinque cambi sia spesso determinante, e in questa prospettiva magari può inserirsi Eriksen anche se non, non stabilmente. Mentre volevo chiudere, fammi chiudere Hai detto prodromi, io dico orbene. Orbene, Franco Ordine, chiudo anche con te, poi vi saluto, ragazzi. Ibra. Cribbio. Cribbio, però. Caspita. Perdonami, è una citazione. Che Ibrahimovic ti aspetti domani? Bello carico. Il solito Ibra, anche un po', come dire, da questo punto di vista. No, no, domatore. Un po' domatore, che chiama a sé i suoi ragazzi. Io però, se devo dire una, non so se per esempio mi ha molto colpito il vero tweet di Biasin, che ha scritto: se c'è il coprifuoco alle 22 e non gioca più Eriksen, che secondo me è stupendo, è il vero tweet della settimana. Ti ringrazio. Invece voglio dire che secondo me, sparo a caso un numero, secondo me il Milan potrebbe avere qualcosa di più e di meglio se anziché Castiglieco giocasse Brahim, però lo metterei non laterale a destra, ma lo metterei dietro Ibra. Questo lo scopriamo, non penso che sarà questa la soluzione scelta da, da Pioli, però vediamo. Grazie ragazzi. Saluti, ciao. Tu me lo vedi il derby? Parte che mi devi ora due tweet, ma lo fai dopo. Parte lo vedo da Crotone, lo intravedrò da Crotone, perché vado domani per Crotone Juve. Lo vedo bellissimo, onestamente bellissimo, perché la squadra più forte, almeno nelle sensazioni, parte dietro in classifica, sia pure di poco. Questa è stata la più penalizzata dalla tamponi race. Quindi diciamo che quella che io credo sia una differenza a favore dell'Inter, anche se il Milan è molto cresciuto, però io penso che l'Inter nelle 38 partite abbia qualcosa di più, qui potrebbe essere controbilanciata dal momento e dalla classifica e dal morale e dalla pressione, e quindi è ancora più equilibrato se possibile. Poi comunque stiamo parlando di distanze minime, non penso che fra Inter e Milan ci siano 25 punti. Penso che ce ne siano 10, ecco, 15. Una cosa del genere, forse 15. E forse 15 potrebbe andare bene a tutte e due, perché vorrebbe dire che l'Inter può essere molto vicino al suo obiettivo e il Milan può tornare fra le prime quattro. Ecco, io credo che tutte e due siano cresciute tanto. L'Inter ha una dimensione, una profondità della rosa, soprattutto a tanti giocatori fatti, finiti, esperti, abituati. Il Milan ha questo grandissimo totem che è Ibra, questo grande spirito di squadra, assieme a una nuova generazione molto interessante, che secondo me, se gli investimenti non calano, se si va avanti dritti e focalizzati e tranquilli nei prossimi anni, li porterà il Milan in tempi abbastanza brevi a giocarsi tutto. Penso che sia anche una partita chiave per Pioli, no? Cioè lui non ha una grande storia con i derby, però mi sembra, l'ha detto lui stesso, un allenatore molto diverso rispetto al passato, la vicenda, la storia, ha detto, lo ha cambiato. Il Milan è dentro a un piccolo grande incantesimo positivo. Dopo il lockdown, il Milan è stata la squadra più forte, probabilmente, quella ha avuto la maggiore continuità di rendimento. In questo inizio di stagione ha cominciato con 6 vittorie, di fatto, fra anche quella ai rigori, però c'è 6 vittorie fra campionato ed Europa League contro 6 avversarie non clamorose, però l'ha vinto tutte 6, insomma non era così banale. Ha ottenuto fino a questo momento tutti i suoi obiettivi, quindi è dentro a un incantesimo. Non c'è stato in questi ultimi mesi un giorno brutto per il Milan dal punto di vista dei risultati, quindi questo ti dà grande autostima, non farmi essere energia. Cattivo, potrei dirti che ha giocato una fila di amichevoli o ha giocato con ma le devi vincere cioè è come quelli, io non sono uno scommettitore, no? So che ho degli amici che giocano lì uno è seduto là Cruciani, sì, no, io detesto scommettere, è una cosa che, anche perché se faccio un pronostico giusto e non lo gioco, si verifica. Se faccio un pronostico giusto e lo gioco, succede qualcosa per cui non si verifica. È un classico, no? E comunque giocarti 6 partite, anche 6 partite facili, anche 6 partite, diciamo, a quota 1,40, 1,50, su tutte e sei la sorpresa è probabile, cioè statisticamente è probabile che uno la sbagli. E Milan fin qui non le ha sbagliate, se l'è sempre cavata, ha rischiato soprattutto in Portogallo. Insomma, secondo me non va sopravvalutato il percorso del Milan fino a questo momento, ma non va neanche sottovalutato. È una squadra che comunque si è costruita un pezzetto del suo percorso. Non è facile, soprattutto in un anno come questo, l'imprevedibilità, con le partite che sono tutte complicate. I dubbi ci sono... meriti, stiamo cercando il valore assoluto. Che il valore assoluto, domani alle 20 abbiamo un'idea un po' più precisa di... Ascolta, amico mio, ti faccio sentire una cosa che avevamo preparato all'inizio, poi in realtà siamo entrati con le voci degli allenatori, poi c'è il tuo radio tweet e poi ci sono due ascoltatori. Scusate, ma nel protocollo non c'era scritto che deve giocare una squadra se non ha 10 contagiati, salvo altre decisioni delle autorità? Ronaldo ha violato il protocollo andando e tornando dal Portogallo? Sì, io penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche delle autorità sanitarie. E lei deve chiamare il Ministero della Salute, il Ministero degli Interni, chi applica le leggi dello Stato e farsi spiegare che cosa ha violato. Io applico per la Juventus il protocollo federale, punto. La sentenza Juve-Napoli è una sentenza saggia come si augurava lei oppure no? È una sentenza di cui prendo atto, vediamo adesso cosa accadrà con il ricorso del Napoli. Ma insomma, parla al tifoso. Senta, ma... Derby Juve-Napoli, tuo radio tweet per a chi lo dedichi? No, lo dedico a Valentino e a Fede perché insomma, ancora una volta questo virus dimostra la sua drammatica democraticità, nel senso che colpisce. Noi siamo abituati nella vita in tante situazioni a pensare che le persone ricche, potenti, famose, belle siano meno vulnerabili, no? E invece questo virus sconvolge tutto. Tutti i capi di Stato, Valentino e Federica. Quindi, insomma, è chiaro che quello che pesa soprattutto, e ce lo auguriamo nel caso di ragazzi così giovani, e quindi penso in buona salute. E ai quali auguro e sono moderatamente ottimista che potranno superarlo senza grandi problemi, come succede nella stragrande maggioranza dei casi per le persone giovani, però è chiaramente l'impatto sulla loro attività agonistica pesa, insomma, che a Valentino possa rodere in questo momento, a Federica pure, anche perché erano alla vigilia di appuntamenti importanti, per cui insomma, al di là delle lacrime di Fede, c'è ancora una volta l'eccezionalità di questa roba e da un certo punto di vista la democraticità di questo virus essere, che colpisce Pier, quasi un macabro spot all'attenzione, al prestare, sì, attenzione. Sì, il problema è che sicuramente sì, è importantissimo prestare attenzione, è importantissimo ripeterlo. Io qua ho la mascherina che ho tenuto fino a un istante fa e me la rimetto appena finisco di parlare, ma anzi me la metto subito, tanto non cambia niente. No, cambia, come spero. Cambio, vabbè, me la metto, insomma, comunque ce l'ho continuamente con me, è importante averla, è chiaro. Tre cose che diciamo come prevenzione dalla mattina alla sera, è anche vero che è giusto, insomma, non criminalizzare chi viene assolutamente, perché può capitare a chiunque, ancora il contagio, insomma, non è del tutto chiaro come meccanismo, quindi cioè non è che qui serva chissà quale pratica, come in occasione di altre malattie, per potersi ammalare. No, qua certo. Può succedere pure che sia semplicemente sfiga, o magari appunto che neanche ti ammali, sei semplicemente positivo da un punto di vista epidemiologico, ma sei asintomatico. Certo. Francesco, buongiorno. Buongiorno, se sono io, salve. Salve, dica. Sei tu. Ma Pesaro, sì. Urbino? Pesaro. Allora, no, volevo intervenire su Napoli-Juventus per capire se dà fastidio solo a me o anche a qualcun altro il fatto che ormai questa diatriba mette di fronte i napoletani che dicono che danno importanza alla salute rispetto allo sport contro quelli che non darebbero importanza alla salute rispetto allo sport, dimenticandosi che il protocollo nasce proprio per dare preminenza alla salute rispetto allo sport, quindi la disputa è tra chi rispetta il protocollo e quindi dà importanza alla salute e chi non lo fa. Seconda cosa, vi chiedo a voi se solo io ho intuito i motivi per cui De Laurentiis non avrebbe diciamo preferito andare a giocare la partita, visto che tutti se lo domandano e nessuno dà la risposta. Ce l'ho solo io questa risposta, ce l'ha qualcun altro. Qual è? Beh, la risposta è nella procedura del protocollo che è variato il 26 settembre e che impone il tampone 48 ore prima della partita. Dunque, se le parole di Andrea Agnelli domenica sera scorsa sono giuste, e io penso che l'abbia detto apposta per darci a noi un input, sì, cioè dicendo che l'SMS ricevuto da De Laurentiis è arrivato non il sabato, ma 2-3 giorni prima di quando lui stava parlando, quindi o giovedì o venerdì. Quindi? Tenuto conto di questa tempistica e tenuto conto che Napoli avrebbe dovuto fare un tampone il sabato mattina, cioè a Torino se fosse partito, avuto paura di trovarsi di fronte altri 6, 7, 8 contagiati, visto quello che era successo al Genova, e trovarsi a giocare contro la Juventus senza 8, 9 titolari. Ma può questo essere, può essere, come può essere che insomma la settimana del sì. Napoli è stata complicatissima. Io ribadisco, torno anche a quello che tu dicevi prima. Il punto è che qua, se trasformiamo questa roba, ma già c'è, però finché la trasformano i tifosi sui social network va benissimo, in una guerra di religione, appunto, Juve-Napoli, dove sembra che ad alcuni interessi la salute e ad altri interessi la regolarità del campionato, le cose non sono così, sinceramente non sono così. Io penso che in questa situazione qui ci si debba attenere a un protocollo. Penso anche che onestamente quello che è successo al Genoa, che ha giocato col Napoli, sia un elemento straordinario, di straordinarietà assoluta, perché è vero che il caso limite è 13 giocatori con un portiere, ma è anche vero che veramente il focolaio che c'è stato al Genoa è stato pesantissimo. Quindi vorrei che questa discussione venisse portata fuori da questo ambito di, ma mi rendo conto che è difficile, perché sì, seppure sì. No, ma anche perché ieri mi ha scritto un ascoltatore e ha ragione Pierluigi, mi ha scritto un ascoltatore in una mail, ha ragione il confronto, la dialettica tra Napoli e Lega Calcio, perché la Juventus adesso è la Juve è in mezzo, ma è chiaro la Juve è in mezzo, però insomma è la Lega che ha detto a Napoli andate a giocare, questi non sono andati, eccetera. Marco da Terni al volo, che poi abbiamo la borsa. Sì, grazie della convocazione, e volevo solo dire una cosa sempre in merito a questo tema. Non capisco bene perché nessuno dica che è il Napoli che si è messo fuori dal protocollo, nel senso, per tutta la ricostruzione fatta ieri da Zampini anche sulle attribuzioni reciproche tra Stato e Regioni. Se io Napoli, mettendomi fuori dal protocollo, interpello ripetutamente l'ASL locale in merito a qualcosa che è già normato dal protocollo e che mi consentiva di partire, mi imponeva di partire, se io chiedo richieste di chiarimento ripetutamente alla ASL, la ASL a quel punto, se io sono uscito dal protocollo, mi risponde come tale, come un normale cittadino, e mi dice no, tu non ti puoi muovere. Ma infatti il tema è quello. No, io sono d'accordo, e questa fra l'altro è la ricostruzione che poi ha portato alla decisione del giudice sportivo. Sì. Cioè io credo che dal punto di vista della giustizia sportiva la decisione fosse pacifica, fosse nell'aria. Adesso il tema si sposta in una sfida fra poteri, ma nel senso positivo del termine, cioè su chi deve avere alla fine l'ultima parola. Chiaro, questo è sicuramente il tema. Dal punto di vista della giustizia sportiva non ci sono grandi dubbi, infatti è arrivata la decisione del giudice. La giustizia sportiva ha rimesso al centro del villaggio l'ordinamento sportivo come fosse normale. Tanto è vero che poi il Napoli andrà eventualmente a cercare giustizia dal suo punto di vista al di fuori dell'ordinamento sportivo. Quindi ti dico, poi la questione la possiamo portare sotto mille punti di vista, ma rischia di scoperchiare un gigantesco conflitto fra gli organi giudicanti della giustizia ordinaria, i poteri del precedente, esatto, e quelli della giustizia. Teniamoci per la borsa, ma tanto torniamo subito. Ma siete poi così sicuri voi interisti che l'Inter vinca al 100%? Non state un po' sottovalutando la potenzialità del Milan? Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Tutti convocati. Un anno che a mio giudizio non posso che giudicare in maniera agrodolce, sia sul campo che fuori dal campo. Ci brucia ancora la finale di Coppa Italia, la Supercoppa e l'eliminazione agli ottavi della Champions League. Sono dei risultati che sicuramente non ci hanno soddisfatti. All'interno di uno spogliatoio sia un'alchimia che si crea e porta a superare ostacoli che possano sembrare insormontabili. Quello che secondo me non è successo con Maurizio è che con tutto l'ambiente in generale non si è creata questa alchimia. Quello che è mancato nel caso specifico a Pirlo, a cui abbina l'assenza totale di un precampionato, ha il debutto assoluto. Significa che la nostra capacità interna sarà quello di accompagnare con l'esperienza che abbiamo noi da dirigenti questo percorso iniziale, perché non sarà privo di ostacoli, ostacoli di cui io sono certo non appena ne colpiremo uno, il mondo cercherà di colpire tutta la Juventus per le scelte che abbiamo fatto. Questo Andrea Agnelli, che sente il rumore dei nemici, ha parlato ieri nella sede, sulla sede istituzionale, cioè il consiglio amministrativo della Juventus, il consiglio di amministrazione della Juventus, dicendo tra le altre queste cose. Poi oggi, ciao Guido Vaciago, intanto. Ciao Carlo, ciao a tutti. Ciao. Poi oggi, a proposito di tweet, ci mancava solo Ronaldo tweet, l'hai letto Piera? Quello della quarantena? Non lasciare che ciò che non puoi fare ostacoli ciò che puoi fare. Hai visto una foto dentro una piscina, sì, in una spa? Casa, sì, credo. Casa sua, sì. Casa sua. Casa sua. Che grosso modo è molto. Cioè, la mia è simile. Cioè, io ho fatto la vasca, l'ho fatta più piccola. L'ho fatta più piccola perché non mandava. Poi dopo, capito? Cioè, preferisco una cosa più, però è bella. No, vabbè, ma insomma, ragazzi, se non c'è quella casa lì, Cristiano Ronaldo, ma chi ce l'ha? E chi ce l'ha? Tu sei lì, Guido, adesso? Secondo io sì, a bordo piscina. A bordo piscina, ok, che fai i tweet insieme a Cristiano. Senti, l'assemblea degli azionisti di ieri, al di là degli scherzi con Spadafora, di cui abbiamo reso documentazione sonora, che cosa c'è da sottolineare? Ma quello che avete sottolineato voi adesso con questo breve riassunto è interessante, il fatto che Agnelli si abbia fatto un po' Mourinho in quel frangente. Poi altre cose interessanti, ha fatto un angosciante quadro del calcio europeo dal punto di vista economico, ma questo più o meno lo avevamo capito, lui ha proprio tirato fuori le cifre. Il calcio europeo rischia di perdere 5,3 miliardi di euro per il Covid, e quindi questo sarà una discreta botta. A me ha incuriosito per esempio una cosa che ha detto un po' fra le righe quando gli hanno chiesto che cosa farà la Juventus nei prossimi anni per fronteggiare questa crisi. Lui ha parlato di creatività sul mercato, di trovare campioni magari a un'età inferiore per pagarli di meno e per, sia a livello di ingaggio che a livello di cartellino, mantenendo alta la competitività. Quindi io credo che questo mercato di McKennie, Kulusevski, che magari non è stato economicissimo ma pur sempre più economico di Ronaldo, questi giocatori giovani e interessanti potrebbe essere la nuova strada, almeno per i prossimi anni, una strada più sostenibile in chiave di reclutamento del personale. Confermato Paratici, direttore sportivo Cherubini, e anche queste sono notizie importanti. D'altra parte, Pier, sì, il calcio in difficoltà, però sfido te o chiunque a fare i conti su quanto ognuno di noi ci ha lasciato nel suo piccolo qualcosa, no? Ma assolutamente, il calcio soprattutto ovviamente chi ha una parte del proprio reddito e quindi del proprio tenore di vita legato a delle variabili. È chiaro che chi ha uno stipendio garantito da questo punto di vista forse è un po' messo meglio, anche se pure lì poi insomma so benissimo di aziende che per esempio hanno chiesto un sacrificio, in qualche caso l'hanno anche imposto ai propri dipendenti. La situazione è eccezionale, questo è indiscutibile, per il mondo del calcio vale per tutti. Poi probabilmente la Juve qualche investimento forte negli ultimi anni, qualche rischio, diciamo anche con Beninazzo, se l'è preso, ma insomma legittimamente, per avere una crescita esponenziale negli ultimi anni. Quindi io credo, sono d'accordo, quella parola lì, quella creatività è una parola chiave secondo me, che racconta il fatto che la Juve dovrà andare a cercare magari qualche occasione in più rispetto al passato, che è il mercato delle squadre che ovviamente hanno i soldi, ne hanno tanti, ma probabilmente devono anche un pochino con più attenzione guardare. Ma ci sta, dopo un periodo di vittorie di questo tipo ci sta, ma ci sta secondo me anche se eventualmente comunicarlo apertamente ai tifosi, basta guardare comunque è un ciclo storia talmente vincente. L'importante è la chiarezza, insomma, i soldi non sono infiniti, i momenti nella storia delle aziende possono essere diversi. Io credo che la Juve abbia ancora una grande capacità di spesa, però probabilmente rispetto rispetto a 2-3 anni fa spenderà diversamente. No, ma non so che pensa Guido, no? No, è quello. Sono d'accordissimo, è quello, spenderà meno. Ma e magari cercherà altre strade. In fondo anche la strada di Pirlo, no? È una strada interessante. Hanno scelto un allenatore che probabilmente si trova anche più a suo agio con una squadra di giovani motivati per il tipo di calcio che vuol fare lui, piuttosto che di trentenni magari che offrono maggiori garanzie di esperienza, ma magari meno stimolo, meno fame. Il tipo di calcio che vuole fare Pirlo forse si adatta più a Kulusevski, McKennie, Chiesa, magari lo stesso Morata, piuttosto che agli Higuain e ai Khedira, ecco. E quindi credo che questo sia un cambiamento anche dal punto di vista della guida tecnica interessante. Tra l'altro una guida tecnica che ieri Agnelli ha elogiato, soprattutto nello staff. C'è stato un passaggio in cui ha detto: questo staff è il primo staff moderno che vedo, ed è lo staff che fra 10 anni avranno tutte le grandi squadre. Ha molto incuriosito, sarà una cosa che approfondiremo nei prossimi giorni, perché è vero che è uno staff molto giovane, ma apparentemente non sembrava uno staff così diverso dagli altri. Allora bisognerà capire che cosa ha di diverso, anche perché una frase analoga l'aveva detto Radio in Nazionale parlando dello staff di Pirlo. Quindi si vede che evidentemente non è soltanto un'impressione di Agnelli, ma è una è un aspetto che andrà approfondito. A molti esperti, a molti analisti di dati, non soltanto più Riccardo Scirea, che era il match analyst della Juve, ma si sono affiancati altri analisti, e poi c'è Tudor, c'è Baronio, insomma. È vero, sono tutti giovani, una truppa fortemente under 50, chissà che questo non porti anche lì delle novità a proposito di soluzioni creative. Sì, ma un'ultima cosa, la posizione di Paratici, Guido, se ne è molto parlato, si diceva di un Paratici in uscita, indirizzato verso la Roma, poi era stato più volte smentito, ma è cambiato qualcosa o non c'è mai stato discussione sul punto? Secondo me sulla Roma non c'è mai stata discussione, sul fatto che Paratici potesse aver avuto delle offerte invece c'è stato, perché lui stesso le ha ammesse. Lui è stato cercato dal Manchester United tra la primavera e l'inizio dell'estate e ha garbatamente declinato l'offerta. Poi io credo che molti lo pensassero in bilico, perché la scelta di Sarri era stata fortemente sua e di Nedved, e quindi sai, quando poi un allenatore viene esonerato, nonostante abbia vinto lo scudetto, a volte porta con sé anche chi lo ha scelto. Invece in questo caso non è stato così. Ieri, insomma, le parole sono state piuttosto inequivocabili, sia quelle di Agnelli che insomma anche le decisioni sull'organigramma. Diciamo che per me la Roma non è mai esistita come ipotesi. L'ipotesi di Paratici da qualche altra parte durante l'estate magari forse c'è stata. Mi sembra che a questo punto, all'inizio dell'autunno, si ricomponga tutto e almeno per un triennio, da quello che si è capito dalle parole, andrà avanti in questo modo. Grazie Guido, ciao. Ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao, presto. Ciao, ciao. Allora facciamo traffico, poi c'è Guido Bagatta, dobbiamo parlare di cose di Eurolega. La questione non è Napoli-Juventus, secondo me la questione è Napoli contro le istituzioni, Federcalcio, Lega e politiche. Napoli, la Juventus stavolta non c'entra nulla. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. E abbiamo rubato per qualche minuto a Radio Monte Carlo alla concorrenza Guido Bagatta. Luigi. Diga. Buongiorno, ciao Guido. Buongiorno a tutti. Ciao, grazie. Senti, è un tema importante e anche che può avere ricadute, secondo me, sullo sport continentale, perché l'Eurolega per prima si è trovata ad avere a che fare con una pioggia di partite da 20-0 per le note intuibili ragioni. Sono già saltate 4 gare. Ora il regolamento dice: ok, tu non ti presenti, 20-0. È già successo 4 volte senza alcuna lamentela da parte dei diretti interessati, però a questo punto si sta ripensando la regola strada facendo. Come leggi questa situazione e soprattutto il futuro di questa competizione? Beh, molto complicato rispetto all'NBA, perché tutte le squadre che giocano l'Eurolega, come peraltro la Champions nel calcio, hanno anche un altro campionato da fare, quello casalingo, altrimenti si potrebbe risolvere con una Super Bowl di Eurolega e arrivederci grazie. Il problema è che ovviamente l'Armani ha gli impegni, a parte stasera con il Madrid, di campionato domenica, continuano a giocare anche se sta dominando nella nostra Lega, per come sta andando potrebbe anche non giocare, perché fino adesso tanti a pochi ogni volta che si presenta in campo. Ma a parte gli scherzi, è molto complicato prima perché non c'è un protocollo vero e proprio da parte dell'Eurolega, che credo lo farà. L'Eurolega è privata in tutto e per tutto, è comandata bene direi da un signore che si chiama Bartomeu di Barcellona, che se l'è inventata, perché dal nulla 20 anni fa è andato contro la FIBA, contro diciamo il palazzo, quello che volevano fare credo le società, anche Galliani con la UEFA, poi ti ricordi la Superlega, no, dei club, ecco. Nel basket è riuscito il colpo, e quindi è privato in tutto e per tutto, essendo privata poi anche una gestione, ovviamente medicalmente no, perché il virus non è privato di tutti, però una gestione un po' diversa da tante altre situazioni. È complicato, credo che il 20-0 non abbia senso, è stato accettato dalle squadre che l'hanno subito, anche perché l'emergenza in questo momento forse non apriva spazio a discussioni di questo tipo. Da ora in poi bisognerà capire qualcosa, tipo posticipare, recuperare, intensificare, oppure... Il problema dell'Eurolega è che ha andato e ritorno con 18 squadre iscritte, quindi sono 34 partite e si viaggia una volta barra due, come in questa occasione in giro per l'Europa, perché c'è il doppio turno. Ad esempio Milano ha giocato l'altro ieri ad Atene, gioca stasera con il Real Madrid. La logica del tavolino però non funziona. L'Eurolega deve avere 8 giocatori che possono scendere in campo, altrimenti perdi 20-0. Si sono accorti che così non funziona, anche perché in televisione partite 20-0 non si vedono. Potrebbe essere anche un problema delle coppe di calcio che vanno a iniziare, Piero. Sì, è un problema anche delle coppe di calcio sicuramente, ma torniamo al punto di partenza del ragionamento di Guido, cioè ragazzi, la situazione sta sfuggendo di mano dal punto di vista soprattutto della quantità di contagi. Ci auguriamo che non sia lo stesso per quanto riguarda la gravità delle patologie e i numeri dei morti e delle terapie intensive, ma dal punto di vista del numero di contagi la situazione è cambiata negli ultimi 15 giorni in maniera clamorosa in Italia e nel resto d'Europa, e quindi è chiaro che adesso abbiamo una quantità di giocatori, gli europei di canottaggio sono tra i 69 positivi, cioè capisci che non siamo in una situazione che è un po' fuori controllo, quindi vuol dire che in questo momento, se si vuole, bisogna pensare a un piano B, dai, come nel calcio, anche nel basket. Però anche pensare... lì, un'eurobolla, al di là delle logiche di calendario, l'NBA ha speso 175 milioni di dollari, stato un buon investimento, considerati i numeri, ne parlavo prima con... Sarà anche ritorno, era stato un modello di successo, ma clamoroso. Plausibile, ad esempio, nell'Eurolega, al di là delle devi ridisegnare di tutti i calendari. Ok, ma plausibile economicamente, Guido? Allora, prima di tutto c'è il problema dei calendari dei campionati nazionali, certo, che come dicevo l'NBA non aveva. Seconda cosa, il rapporto dei soldi, nonostante sia stato bravo Bartomeu a negoziare contratti tipo quello in Grecia, Turchia, Spagna, decisamente importanti, in Italia il contratto dell'Eurolega, che ha Eurosport, non ha certo i numeri che ha il contratto dell'NBA con ESPN, con TNT e con gli altri, e quindi dal lato diciamo investimento l'NBA dice ha investito 175 milioni di dollari nella bolla per portarne a casa quasi un miliardo di diritti televisivi, quindi è stato un investimento direi fatto bene. Sì, non avrebbe mai preso quei soldi, certo, a campionato bloccato. Da noi non è così, perché una bolla costerebbe non certo 170 milioni o 150 milioni di euro, ma costerebbe, e gli introiti televisivi delle squadre per l'Eurolega e di chi paga non sono minimamente avvicinabili ai contratti dell'NBA. Quindi se io la vedo possibile nel calcio, io ti dico prima o poi sì, se continuerà così, se la vedo possibile nel basket europeo? La risposta è no. Sì, adesso... è vero che però il basket per sua natura ha dei ritmi di partite molto più ravvicinati. Cioè, noi lo sappiamo, con gli europei, le Olimpiadi si gioca praticamente anche tutti i giorni. Ogni tanto c'è una pausa, ma questa cosa però, c'è. Facciamo il caso di questa settimana. Sì. Milano ha giocato domenica in campionato, poi ha giocato mercoledì ad Atene. Gioca stasera con Real Madrid in casa, domenica gioca in campionato. In che bolla sta? Ma è chiaro che devi fare. Allora, premesso che ci auguriamo tutti che si possa continuare con la stagione normale, l'equivoco di fondo che c'è in questo momento in tutto lo sport è che si è cominciato pensando di poter vivere una stagione normale e ci rendiamo conto che è difficile andare avanti così, per cui se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare avrebbe secondo me più senso ragionare su concentrare le partite in determinati momenti. Ovviamente devi dividere i campionati dalle coppe e cercare di minimizzare la distanza che esiste fra una partita e l'altra, perché una stagione normale ti porta ad avere dei positivi, cioè è statisticamente probabile che così come tutte le altre persone, anche i giocatori che sono ipercontrollati, se tu gli fai fare una settimana normale nelle loro famiglie, con i figli, le mogli, i ristoranti, adesso ce ne saranno di meno, magari ci sarà un po' di lockdown, però comunque non è una bolla, ma non è neanche, secondo me, simile alla bolletta che c'è stata nel calcio italiano per post-lockdown, che era una via di mezzo, no? Giocava ogni 3 giorni. Su questo potrebbe essere in una previsione futura che speriamo di non dover attuare. In realtà il basket senza bolla, ma l'ha già fatto, perché la Final Eight di Supercoppa a Bologna era una cosa del genere, quindi c'è stata una situazione così, quindi si potrebbe fare. Una cosa da dire che secondo me non dice nessuno è che io sono convinto che in qualche modo chiaramente il sistema immunitario se si abbassa favorisce, se uno è nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, col sistema immunitario un po' più basso favorisce senza tirare in mezzo il paziente zero che aveva fatto una maratona, che era un super atleta e tutto il resto, però gli sportivi professionisti si allenano tanto, e quindi sono in gruppo, soprattutto quelli di squadra, anche il ciclismo, quindi forse c'è anche un'incidenza maggiore perché hanno sbalzi di un sistema immunitario super, perché un atleta professionista rispetto a uno come noi ce l'ha diverso, però anche lì ha degli alti e bassi a seconda della fatica che fa. Anche su questo bisognerebbe un attimino pensare, se uno dice ma com'è possibile che tu da uomo di radio lo sai, Clock è spietato e bastardo, quindi dobbiamo fermarci qui. Grazie Guido. Ciao Guido. Pier, Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ciao a tutti. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ciao, Radio 24. Saluti! Per le aziende e professionisti, il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.